in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, tantissimi quotidiani danno spazio alla buona notizia arrivata ieri della liberazione di Silvia Romano. Poi ci sono tutti gli aggiornamenti sul primo weekend, diciamo, di fase 2 e qualche notizia politica. Cominciamo però dal Sole 24 Ore che, a proposito di fase 2, titola così: assalto al decreto maggio. Sapete che avrebbe dovuto essere il decreto aprile, poi è diventato il decreto maggio e scrive il Sole 24 Ore: spese extra per 6-7 miliardi. C'è ancora molto, perché questa parola assalto, perché naturalmente i fondi sono, o comunque la grandezza di questo decreto è per forza di cose limitato, e quindi bisogna cercare di trovare dei compromessi e inserire più misure che tamponino la crisi economica possibile. La fotonotizia è una bella foto scattata in quella zona di Milano che si chiama City Life, dove sono sorti alcuni dei grattacieli più recenti, che hanno modificato completamente la cosiddetta skyline di Milano, cioè il profilo degli edifici. In questo caso i tre edifici grattacieli, comunque per gli standard di Milano, fotografati sono, sapete che sono stati tutti fatti da architetti famosi, quello di PricewaterhouseCoopers, di Generali e di Allianz, e la foto serve poi per un approfondimento che trovate a pagina 8 di Cristina Casadei: grandi aziende in fase 2 con i grattacieli vuoti, perché lo smart working, naturalmente ho citato i nomi, sono una compagnia assicuratrice, una società di consulenza e una grande banca, naturalmente sono tutti lavori che si prestano più di altri a essere fatti in modalità telematica, quindi i grattacieli si sono svuotati. Il Corriere della Sera, come potete immaginare, comunque vi segnalo che le pagine 2 e 3 sono tutte focalizzate sugli interventi per come li conosciamo adesso, perché appunto è tutto ancora un po' un work in progress, quindi divisi per punti tutto quello che c'è in questo decreto maggio: i versamenti sospesi al fisco, naturalmente le compensazioni, gli interventi straordinari per la sanità e ancora moltissime altre ipotesi, o comunque più che ipotesi, anche se, ripeto, non c'è ancora la stesura definitiva di questo decreto. Corriere della Sera, il titolo principale è un'intervista al Premier Conte. Oggi Conte tocca al Corriere, sapete che ne hanno concesse tante il Premier e i suoi ministri più importanti di interviste in questi giorni. Qui l'intervista di Marco Galluzzo e Monica Guerzoni, intitolata "L'Italia andrà in vacanza". Poi però la foto principale è di Silvia Romano, che come avrete ormai sicuramente tutti sentito, 24 anni, era stata rapita in Kenya il 20 novembre del 2018, si trovava in Kenya con un'organizzazione che aiuta soprattutto i bambini del paese africano. Il titolo scelto dal Corriere della Sera è "Un video a gennaio, eccomi sto bene, così è stata liberata Silvia Romano". E poi Francesco Battistini, che del Corriere della Sera è uno degli inviati di punta, poi trovate tutto a pagina 2: "Sono stata forte, ho resistito", questo è il virgolettato usato per il pezzo, le parole della volontaria. La Repubblica, Gentiloni a Conte, ora l'Italia può usare il MES, quindi si torna sull'utilizzo di questo fondo. Ci vorrà un voto del Parlamento, quindi per ora anche qui sono ipotesi, e il commissario europeo, che in questa intervista a Repubblica, commissario europeo ex Premier, lo ricorderete, e ora commissario europeo agli affari economici, quindi un po' il ministro dell'Unione Europea per l'economia, che dice questi 37 miliardi, che come sapete hanno l'unica condizione, sono un prestito ma allo 0,1% con possibilità di restituzione entro 10 anni, quindi più favorevole di così sostanzialmente c'è soltanto un regalo, ma l'unica condizione, quindi non riguarda i tassi di interesse o le modalità di restituzione, ma il fatto che questi aiuti siano vincolati a spesa sanitaria. E la fotonotizia anche in questo caso è dedicata a Silvia Romano, che per Repubblica di anni ne ha 25 e lo scatto è preso dal suo profilo Facebook e la ritrae con un bambino nel Kenya, uno dei bambini appunto che aiutava. Riscatto e mediazione turca, questa è l'ipotesi di Repubblica, così hanno liberato Silvia. Con la Repubblica come ogni domenica in edicola L'Espresso, il titolo è Ripartenza, sostantivo femminile, perché naturalmente tra i temi principali di questa ripartenza c'è il ritorno al lavoro delle donne. Sapete che gli oltre 4 milioni di lavoratori che sono tornati a lavorare appunto lunedì scorso, di questi il 72% è uomo, le donne, la maggior parte delle donne restano a casa, soprattutto perché le scuole non riaprono e quindi qualcuno dei bambini, specie se sono non sono ancora adolescenti, si suppone che in quel caso si possano autogestire un po' meglio, però appunto qualcuno se ne deve occupare. La Stampa, bentornata Silvia, donna coraggiosa, e qui vi segnalo il racconto di Domenico Quirico, che ricorderete, inviato della Stampa, che fu a sua volta rapito per molti mesi, e che quindi cerca di fare un parallelo e di raccontare che cosa si prova dopo un sequestro di questo genere. L'editoriale è del neo direttore della Stampa, questa è la seconda stampa della domenica che firma Massimo Giannini, fase 2 tra Babele e Bisanzio. Come ricorderete, Maurizio Molinari, precedente direttore, dedicava questi editoriali della domenica soprattutto ai temi esteri, anche negli ultimi mesi, da quando si è entrati nella crisi da pandemia. Massimo Giannini, che è molto più ferrato sui temi di politica interna, appunto si concentra su questo. Il Messaggero: imprese, aiuti versati dal fisco. Questo è un virgolettato, perché il Messaggero invece ha un'intervista al ministro per lo sviluppo, ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, che sapete è il principale tessitore, diciamo, da una parte degli accordi a Bruxelles e dall'altra di questo decreto maggio. Gli indennizzi ai primi di giugno, non vogliamo statalizzare le aziende, il MES è utile, sarà coinvolto il Parlamento. C'è anche un riferimento naturalmente a Silvia Romano, è la fotonotizia. Silvia libera, costretta a convertirsi all'Islam, questa un'altra appunto ipotesi fatta, o meglio questo è il racconto fatto dal Messaggero. È stata rilasciata tra l'altro in Somalia dopo 18 mesi dal rapimento in Kenya e oggi dovrebbe arrivare a Roma. L'editoriale, come ogni domenica, è affidato a Romano Prodi: riequilibrare l'Europa a egemonia tedesca. Quindi Romano Prodi auspica un ravvicinamento con la Francia, tra l'Italia e la Francia. Ci sono molte ipotesi, come potete immaginare, sul riscatto pagato per la liberazione di Silvia Romano. Vedremo su altri giornali, si fanno anche delle cifre. A pagina 3 del Messaggero: i video, i soldi, la tela degli 007 fatta convertire all'Islam. L'intervista a Roberto Gualtieri la trovate invece a pagina 5 del Messaggero. Sostegni a giugno, nessuna statalizzazione, perché sapete che si era ipotizzato anche che appunto il fatto che il governo sostenga direttamente le imprese garantendo prestiti o erogando prestiti precludesse a un'entrata dello Stato in massa nel capitale di alcune aziende. Gualtieri qui lo smentisce. Avvenire, fotonotizia subito sotto il titolo della testata: Silvia ora è libera, il volto bello dell'Italia solidale, salvata con un'operazione degli 007, era stata sequestrata e poi portata dai jihadisti in Somalia, perché sapete che in Somalia c'è appunto una filiale locale della Jihad, perché in ogni paese hanno le loro caratteristiche questi gruppi di fondamentalisti islamici. Però il tema principale è ancora quello economico, delle conseguenze economiche della pandemia. Uno su sei non ce la fa. Il decreto rilancio, perché adesso viene chiamato anche così, non più aprile, non più maggio, ma rilancio, ancora in fase di elaborazione. L'appello di Mattarella, che è arrivato ieri, dove si celebrava anche la nascita dell'Unione Europea, c'è in gioco il futuro dei nostri popoli. Quindi un appello appunto all'Unione Europea. Per quanto riguarda questo titolo, uno su sei non ce la fa, perché? Perché la cassa integrazione, lo sappiamo, è stata annunciata ma viene erogata in modo lento, i bonus sono fermi e 10 milioni di persone aspettano gli aiuti. Il governo ha promesso più rapidità, quindi anche meno burocrazia. Poi naturalmente ci sono i numeri che stanno passando in secondo piano perché sono in miglioramento, contagi giù, timori per la prima domenica della fase 2, che oggi vedremo cosa succederà, e poi anche la notizia che trovate su tutti i giornali, che avete sentito nei GR, del Tribunale Amministrativo Regionale, cioè quello appunto della giustizia amministrativa, che è una delle branche della giustizia in Italia, quindi civile, penale e amministrativa. Si occupa sostanzialmente dei provvedimenti delle autorità, è stato funziona, ce n'è uno in ogni regione, il ministro per le regioni Boccia, sapete, ha fatto ricorso appunto al TAR per quell'ordinanza del governatore della Calabria Iole Santelli, che riapriva i bar, permetteva a bar e ristoranti che hanno tavoli all'aperto di riaprire. Il TAR ha dato torto alla Calabria, adesso vedremo cosa succederà, anche perché sapete che in altre regioni ci sono, e lo vedremo su altri giornali, ci sono ordinanze simili dei governatori, cioè per aprire più speditamente di quanto prevedono le disposizioni del governo centrale alcuni tipi di esercizi. Il giorno, il primo weekend di semilibertà, il tema è quello appunto del primo weekend di fase 2, e poi però la foto è sempre di Silvia Romano, liberata Silvia Romano dopo 18 mesi di prigionia in Africa. Il secolo XIX, ve lo cito perché sapete che fa parte dello stesso gruppo a cui appartengono anche La Stampa e Repubblica, il gruppo Gedi, ve lo cito però perché dicevamo le regioni che prendono decisioni diverse da quelle del governo centrale, prova di forza delle regioni, Toti, governatore della Liguria, e il secolo XIX è il quotidiano di Genova, riapriamo tutto dal 18, la Liguria stanzia 14,15 milioni per entrare nel capitale di aziende che hanno bisogno di liquidità, a proposito di statalizzazione. Libero, Renzi abbaia e non morde, Matteo ha sparato a salve a Conte, forse gli ha spostato appena il ciuffo, aveva chiesto una svolta, ha ottenuto figuracce per le sue ministre e promesse, o rompe o ci ha rotto. L'editoriale è di Vittorio Feltri, direttore di Libero, e Alessandro Sallusti, direttore del giornale, perché i due quotidiani insieme avevano lanciato questa raccolta fondi per la costruzione dell'ospedale di Fiera Milano, quello destinato ai pazienti Covid, in particolare a chi aveva bisogno di terapia intensiva, grazie infinite ai lettori molto generosi. Poi vi segnalo sempre dalla prima pagina di Libero l'articolo di Fausto Carioti che si chiede quanto hanno pagato per il riscatto di Silvia Romano, e poi molto interessante sulla questione del Covid, un articolo di Melania Rizzoli che poi trovate a pagina 8. Sapete che Melania Rizzoli è assessore ma è anche regionale, ma è anche medico, e a lei Libero affida tutti gli articoli che trattano di temi medici. E oggi quindi il titolo è: il Covid ci lascia 300.000 persone con guai psichici. È un tema che abbiamo trattato più volte, non riguarda solo l'Italia ma tutti i paesi che sono stati colpiti da questa pandemia, cioè i danni appunto oltre a quelli fisici, quelli psicologici che questa malattia si lascerà dietro. Ci lasciamo però un attimo e sentiamo gli aggiornamenti sul meteo. Si è parlato di intelligenza artificiale in azienda al Data AI Summit 2020, l'evento in streaming di IBM del 29 aprile scorso, a cui hanno preso parte oltre 1000 persone in collegamento live insieme a moderatori ed esperti. 4 ore di diretta, 36 relatori coinvolti da remoto e 900 partecipanti al virtual tour di IBM Garage. Un momento unico per studiare le case history del presente e poter guardare al futuro. Rivivi l'evento su ibm.com/AIDataSummit. Imprenditore, affronta la fase 2 con Credimi Futuro. Il finanziamento per società di persone di capitali coperto al 90% dal fondo di garanzia. Ottieni fino al 25% del tuo fatturato e rimborsi in 5 anni a partire dal 2021. Con Credimi fai tutto online, senza code allo sportello. Verifica se la tua azienda è finanziabile. Basta la partita IVA. Ricevi la proposta in 3 giorni. Vai su credimi.com. Messaggio promozionale. Fogli informativi su credimi.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Nelle prossime ore correnti più umide occidentali arrecheranno un po' di variabilità di passaggio sull'Italia, con qualche goccia di pioggia stamane solamente sulle centrali tirreniche. Non mancheranno comunque sprazzi d'azzurro nelle prossime ore durante il pomeriggio. Poi attenzione, perché dalla serata netto peggioramento del tempo sulla Sardegna e le regioni nord-occidentali. Arriva una perturbazione dalla Francia con acquazzoni e temporali che investiranno l'isola e poi anche Liguria, Lombardia, Emilia, Piemonte e poi Valle d'Aosta durante la nottata, con acquazzoni e temporali anche intensi. Perturbazione che lunedì mattina investirà anche il nord-est, Toscana, Umbria e Marche. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. In Italia c'è una chiesa che gestisce l'8 per mille insieme agli altri e a braccia aperte, per sostenere chi non ce la fa da solo, per la salute e la qualità della vita, per chi è rimasto indietro, per il pianeta, come ogni anno, senza pregiudizi religiosi, culturali o di genere. Firma per la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, l'altro 8 per mille. Trovi il resoconto dettagliato dei progetti sostenuti su www.8permillevaldese.org. Il clima che cambia, l'energia che un giorno è troppa e l'altro troppo poca, la burocrazia e le cyber minacce. Se il mondo è pieno di guai, è anche pieno di gente che prova a risolverli e a immaginare un futuro diverso. E noi raccontiamo le loro storie. Sono Maurizio Melis. Vi aspetto a Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, dal lunedì al venerdì alle 20.50 e alle 23.50 su Radio 24. In collaborazione con... Oracle, il cloud più sicuro per dati e applicazioni aziendali come motore della ripresa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ci mancavano ancora alcune prime pagine, quella del giornale, ultimo appello, un anno senza tasse. È un appello congiunto di molte organizzazioni di imprese, tra le quali Confindustria, che lo ricordo sempre, ma penso che la maggior parte di voi lo sappiano, è l'azionista di maggioranza di questo gruppo. Per questo gruppo intendo il gruppo di cui fanno parte il quotidiano, la radio e l'agenzia radio. Radio Corp. In prima pagina anche la questione di Silvia Romano, l'articolo di Fausto Biloslavo e Luigi Guelpa, e loro ipotizzano che la cifra pagata ai jihadisti sia 4 milioni. A proposito di questo, intanto ringrazio tutti gli ascoltatori e gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. Io credevo sinceramente ieri, purtroppo sui social network ne ho letti tanti di commenti di questo con questi toni, pensavo, mi auguravo che qui a Radio 24 non arrivassero, invece c'è chi anche qui ha mandato un messaggio definendo Silvia Romano una fighetta che è andata a lavorare in quei paesi definiti shit hole. Io credo che la maggior parte di voi sappiano che cosa si intenda, e shit hole penso che intendesse il Kenya o la Somalia, ed è una definizione, non so se riesco a pensare a qualcosa di più offensivo, e naturalmente qualcosa di più offensivo per Silvia Romano, definita appunto fighetta, ma tant'è. Quindi anche a Radio 24 arrivano questo tipo di messaggi che a me fanno solo tristezza. Dunque, il giornale, poi c'è La Verità, il titolo: quei migranti sono un pericolo ma il governo li accoglie lo stesso. Questo titolo è legato al fatto che l'esecutivo da mesi si fa scudi con gli scienziati, ora gli stessi scrivono che regolarizzare e far lavorare centinaia di migliaia di clandestini mette a rischio loro e gli arti, ma per placare i renziani Giuseppi li ignora. E a proposito di scienziati, l'ascoltatore che chiede ma questa famosa task force alla fine sono pagati no, francamente non lo so, mi informerò, perché anche per me resta abbastanza un mistero Così come dire, devo dire, resta un mistero se esiste una fase 2 di questa regolarizzazione, perché non basta, no? Naturalmente regolarizzare queste persone che vivono nelle condizioni che abbiamo visto, in particolare in Calabria. Una volta regolarizzati bisognerebbe anche, o prima bisognerebbe pensare a come farli vivere in condizioni diverse, anche perché appunto c'è un rischio sanitario, ma di questo nessuno parla. Ma ci sono tanti altri misteri per me, visto che qui naturalmente sui quotidiani si parla anche della questione dei mafiosi scarcerati. Ora si pare verranno riportati in carcere, o comunque si smetterà di scarcerarli. È appunto la genesi di quel primo provvedimento, cioè come si è pensato di poterli scarcerare per un rischio Covid, quando, come hanno detto molti, come hanno fatto notare molti magistrati antimafia, si tratta di persone in isolamento, quindi non si capisce dove potesse essere il rischio di contagio per loro. E tra l'altro la verità, la notizia la trovate anche altrove, parla anche di questa richiesta di Cesare Battisti in carcere, dopo che, ricorderete, è stato estradato dal Brasile, è tornato in Italia ed è andato direttamente in carcere, ma adesso anche lui chiede di uscire dal carcere per il rischio Covid. Il Fatto Quotidiano, grande foto in prima pagina, Silvia ritorna, così i servizi l'hanno liberata. Sono stata forte, queste sono le uniche parole che per ora le attribuiscono tutti i giornali. Dopo 18 mesi di prigionia, la trattativa e il riscatto. Ma andiamo ora sulle pagine interne dei quotidiani. Forse qui mancava la prima pagina del Manifesto, ma dopo ve la eccola qua, scusate, mancava la prima pagina del Manifesto, Silvia Romano in prima pagina, finalmente. E poi il tema delle regioni che stanno facendo delle ordinanze che accelerano le riaperture rispetto alle regole decise dal governo, la fretta dei governatori, la frenata dei giudici. Ma dicevo, dalle pagine interne, una inchiesta sul Sole 24 Ore, pagina 7, di Luca Davi e Stefano Elli, PMI, ondata di insolvenze verso le banche. Questo naturalmente è un grande tema in Italia e non solo. Tutte le aziende, in particolare quelle più fragili, cioè le piccole e medie imprese, che in attesa o di poter accedere a fondi straordinari o prestiti o la cassa integrazione, che però appunto dipende dalle dimensioni dell'azienda, molte di loro stanno già andando in insolvenza. Le prime stime sulla crescita dei nuovi crediti problematici parlano di un 8-10% del portafoglio delle banche, pari a circa 140 miliardi. E le trimestrali, perché nel frattempo è anche stagione di trimestrali, cioè le aziende quotate stanno dando i dati relativi al periodo gennaio-marzo, solo quelli sul fatturato, perché non sono obbligati a dare quello sulla redditività, ma le trimestrali fotografano solo i primi danni del lockdown. Dopo Lehman Brothers, la grande crisi, ricorderete che nel settembre 2008 innescò poi la crisi finanziaria e che divenne poi crisi dell'economia reale in tutto il mondo, quindi i crediti deteriorati, pensate, sono cresciuti del 22% all'anno per i 7 anni consecutivi. Vi dicevo l'articolo di Cristina Casadei sui colossi della finanza che sono in fase 2, ma i grattacieli restano deserti. Nella torre di Unicredit, per esempio, presenze al 10%, nel cosiddetto diamante di BNP solo 100 persone, e per quanto riguarda Banca Generali il 95% delle persone lavora da casa. Nelle sede Allianz, pensate, presente il 2%, mentre nella grande sede di Intesa San Paolo, la sede principale, quella di Torino, solo il 6%. E poi un'inchiesta di Ivan Cimarusti sul denaro falso. Milano e Napoli lo producono, Roma lo spende. Secondo la relazione appunto alla quale ha attinto Ivan Cimarusti per il suo articolo, la relazione dei carabinieri dell'antifalsificazione, le monete sono prodotte all'ombra del distretto metallurgico lombardo. In Campania invece si stampano le banconote, il mercato verso l'estero della valuta falsa viaggia su Telegram. E poi invece la pagina di Sport e Business, la consueta pagina ogni domenica sul Sole 24 Ore, Marcello Frisone ci racconta questa bella storia: crowdfunding, i tifosi salvano la squadra del cuore. Lo stop delle attività agonistiche manda in crisi i bilanci delle società sportive, perché sapete, non si tratta solo di grandi società, alcune delle quali persino quotate come Roma e Juventus, ma si tratta di tutte quelle società più piccole che con questa crisi, con questo congelamento di ogni attività, sono in grande sofferenza. E quindi l'idea, appunto, che le società potranno emettere equity oppure mini bond da far sottoscrivere ai supporter anche per piccoli importi. Questo significa crowdfunding, cioè ottenere dei fondi attraverso un crowd, che in inglese vuol dire folla, perciò vuol dire comunque appunto ottenere dei fondi, tanti fondi da tante persone, anche di piccola entità, ma che poi alla fine possono arrivare a un importo sufficiente, per esempio per un salvataggio. È molto interessante l'articolo di Mauro Carbone nella sezione Nova, il nuovo senso del tempo davanti agli schermi. Occorre le fotografie, è un collage di tanti musicisti davanti agli schermi. Occorre prenderne atto, lo schermo ha vinto, è stata necessaria l'emergenza per capire le potenzialità di quelle interfacce. Forse siamo noi a non distinguere tra reale e immaginario. Nella sezione Lifestyle invece vi segnalo un articolo di Fabrizia Villa: arredare outdoor, un intreccio di colore per la nuova villeggiatura. Continueremo a parlare, avete sentito il Premier Conte che dice sì, andremo in vacanza, chi ha uno spazio, la fortuna di avere uno spazio o un balcone, un terrazzo, magari anche un piccolo giardino, può pensare magari appunto a rinnovarlo con questa grande branca dell'arredamento, che è l'arredamento outdoor. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento di Giuseppe Sarcina dagli Stati Uniti, perché avete sentito, ci sono molte notizie per quanto riguarda il diffondersi del virus. Anthony Fauci, il virologo dell'Istituto Nazionale di Virologia, che si è messo in autoisolamento, ma tra l'altro invece ieri la notizia è arrivata che Katie Miller, che è portavoce del vicepresidente Mike Pence, è positiva, e poiché è sposata con uno dei consiglieri più stretti del presidente, Stephen Miller, che è uno degli ispiratori, spiega il Corriere della Sera, per esempio delle politiche di Trump sull'immigrazione, sono entrambi naturalmente adesso in isolamento, ed è stata anche contagiata un assistente della figlia di una delle figlie della figlia di Donald Trump, Ivanka Trump, che è anche suo consigliere. Poi l'altra grande ex superpotenza, vogliamo dire così, non lo so quali siano veramente le superpotenze oggi, probabilmente Stati Uniti, Russia e Cina. E dalla Russia, appunto, Fabrizio Dragosei ci racconta un maggio triste e solitario per lo zar Putin. Doveva essere la primavera del trionfo, ma è arrivata la pandemia. Il PIL scende, la popolarità cala e anche la grande parata per i 75 anni dalla vittoria sul nazismo salta. E tra l'altro sicuramente appunto avete sentito che, oltre al fatto che in Russia si sta diffondendo moltissimo il coronavirus, la Russia, che è comunque un grande produttore di petrolio, ha questa ulteriore difficoltà che, come per tutti i paesi che traggono parte del loro PIL appunto dal petrolio, con il prezzo del petrolio molto basso, è in grande difficoltà. Un approfondimento di Gaia Piccardi su questo strano personaggio che è Novak Djokovic, naturalmente grandissimo tennista, in questo momento è numero uno del tennis mondiale, ma è anche un Novax, e quindi ha approfittato di questa mancanza di notizie dalle partite per dichiarare che lui non si vaccinerà. Lo dice il suo guru, che è anche quello che ha ispirato per esempio il suo regime alimentare, e Rafa Nadal, 33 anni, numero 2 al mondo, eterno rivale di Djokovic, dice dovrà cedere se vuole giocare, perché naturalmente quando si riprenderanno tutte le competizioni ci saranno, e speriamo ci sarà il vaccino, naturalmente tutti gli sportivi dovranno vaccinarsi. Interessante l'intervista a Giampiero Calzolari, che dal 2017 è presidente di Bologna Fiere ed è anche presidente di Granarolo, l'azienda appunto emiliana, che dice, fa questa proposta: le fiere, riconvertiamo gli spazi in aule, cinema e teatri, ma la vera sfida è la mobilità. E poi vi segnalo dal Corriere della Sera l'articolo più ampio sulla scomparsa di questo grande uomo che era Piero Gelli, aveva 81 anni, era un credo poco noto ai più, ma una di quelle persone che lavora dietro le quinte nell'editoria e che offre tutta la sua capacità, il suo talento alla promozione, alla scoperta anche di nuovi talenti. È stato direttore editoriale nella sua vita di tantissime case editrici, di tutte le case editrici più importanti italiane, dalla Rizzoli e Einaudi, poi Baldini e Castoldi, e qui lo ricorda Paolo Di Stefano, Piero Gelli, signore dell'editoria, che amava Gadda e il talento. Amico di Caproni, Manganelli, Arbasino, lavorò per 20 anni con Livio Garzanti. Dalla Repubblica, vi dicevo, la questione dei boss scarcerati, Liana Milella, che per Repubblica scrive sempre di temi giudiziari, ecco il decreto sui boss scarcerati, rivalutare subito tutti i casi. Negli ultimi 7 giorni, intanto ricordiamo questo, fuori solo un detenuto. Tutta questa vicenda ha avuto origine da una circolare di Basentini, che nel frattempo non è più capo del Dipartimento Penitenziario, si è dimesso anche per questa ragione, ed è appunto è sua la firma sotto la circolare che segnalava i rischi sanitari per i detenuti affetti da una serie di patologie, tra i quali alcuni di questi boss che sono stati poi in effetti scarcerati. Noi ci fermiamo un attimo per le informazioni sulla viabilità. No, non siamo pronti. Allora, sempre su questo tema, vi segnalo un'intervista a Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo e Torino, sulla Stampa, di Giuseppe Salvaggiulo. Segnali pericolosi, c'è stata una falla nella lotta alla mafia, e il tema è appunto sempre questo della scarcerazione. E poi due storie tristi comunque dalla Stampa. Una viene dall'India e ce la racconta Carlo Pizzati, ma riguarda in realtà un sequestro record fatto a Hong Kong di pinne di squalo, carico 26 tonnellate, partito dall'Ecuador, vale 1 milione di euro. E a che cosa serve? A una zuppa che secondo la medicina tradizionale cinese ha un potere afrodisiaco. La dogana ha stimato che gli animali pescati e uccisi sono stati più di 38.500. E poi un'altra storia, questa ce la racconta Lorenzo Simoncelli da Città del Capo, mancano i controlli, strage di rinoceronti nelle riserve africane. Perché se abbiamo, tanti di noi, guardato con curiosità, con piacere, forse anche il fatto che tanti animali in questa fase di lockdown si riappropriassero o degli spazi naturali o addirittura a volte si spingessero fino in città, è anche vero che purtroppo, siccome per esempio in Sudafrica anche i ranger, tra l'altro in Congo ne sono stati massacrati alcuni, ma anche i ranger non possono andare a lavorare, ed ecco che arrivano i bracconieri o i cacciatori. Dal Messaggero vi segnalo invece un approfondimento sull'altro grande tema di cui si è parlato molto in questa settimana, che è il tema dei contagi sul lavoro, perché questo è un dato che racconta il Messaggero con Simone Canettieri e Mauro Evangelisti a pagina 9, peserà sulle riaperture, perché naturalmente imprenditori piccoli, grandi, artigiani eccetera vogliono avere delle garanzie sulle eventuali responsabilità se qualcuno si dovesse contagiare sul lavoro, anche perché lo sappiamo, lo abbiamo capito, soprattutto in assenza di test diffuso, quindi di tamponi ma anche di test sierologici, è difficile stabilire veramente dove una persona sia stata contagiata. Un altro tema purtroppo legato alla pandemia, in questo caso possiamo parlare degli effetti sociali della pandemia, lo solleva Avvenire, è allarme usura in tutto il paese. Si allarga da nord a sud la pandemia sociale evocata dal Papa nei giorni scorsi come effetto della crisi, e naturalmente si ribadisce che la Chiesa è in campo con i preti, diocesi e la Caritas. E poi, visto che abbiamo detto le scuole restano chiuse e si va verso l'estate, ci potrebbero essere delle regole per i centri estivi, ma l'Avvenire naturalmente si occupa di un tema che è molto vicino a questo quotidiano, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, cioè dei Vescovi Italiani, oratori, un'estate da inventare, diocesi impegnate con le regioni sulle linee operative perché le parrocchie possano occuparsi dei più giovani, dal Piemonte alla Puglia, ecco su cosa si sta lavorando, tra le ipotesi anche il famoso braccialetto distanziatore, che però a molti non è piaciuto. E adesso finalmente ci sono sono pronti i colleghi della viabilità, sentiamo questi aggiornamenti. Strade in diretta. Ben trovati, ancora una buona giornata a tutti voi. L'unica segnalazione si riferisce alla 16 Napoli-Canosa. Si registrano rallentamenti con code a tratti a causa di lavori tra Grotta Minarda e Vallata in entrambi i sensi di marcia. Traffico sostanzialmente scorrevole lungo la restante rete autostradale della penisola. Per questo rapido appuntamento è tutto, a più tardi. Vi auguro buon viaggio. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando naturalmente e a tutti quelli che stanno mandando messaggi. Poi mi chiede uno ma che giornalista sono, perché non ho detto che anche la Lazio è quotata, anzi che la Lazio è stata la prima squadra a quotarsi e io ho parlato della Roma, aiuto. Si confesso, in effetti non sono molto ferrata in calcio, però credo di essere comunque una giornalista. Che giornalista sei? Punto interrogativo. Non lo so, sono una giornalista, punto, direi. Con naturalmente tantissimi temi sui quali non sono particolarmente ferrata. Ma prima di passare ai supplementi domenicali, vi segnalo dal Secolo XIX, che ha una sezione, essendo il quotidiano di Genova, dedicata all'economia, che viene definita economia e marittimo, perché c'è il tema delle crociere, che naturalmente, come tutto il turismo, sapete, è particolarmente, forse il settore in assoluto più colpito dalla pandemia, e quindi Matteo Martinuzzi sul Secolo XIX ci spiega. Crociere, le prime tre compagnie si arrendono, cioè Princess Cruises, Holland America e Seabourn Cruise Line, itinerari confermati solo a partire da autunno, di fatto cancellata l'intera stagione estiva in Europa. Con, naturalmente, come potete immaginare, tutte le conseguenze per chi lavora in questo settore. Vi segnalo ancora, forse solo dal manifesto, la situazione in Brasile. Sapete che il premier Jair Bolsonaro, che persino per ieri aveva programmato una grande grigliata nella sua residenza di Brasilia, è ancora oggi, nonostante molti governatori di alcuni stati brasiliani non lo sostengano, è ancora oggi uno dei capi di stato che minimizza la pandemia. E quindi il manifesto si concentra sui dati più recenti che vengono dal Brasile. Salgono contagi e decessi in Brasile, sempre situazione sempre più grave, e il presidente viene definito sempre più distante dalla realtà. Ma dicevamo i supplementi domenicali, come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi sulla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, che si intitola questa settimana I Fatti, e la citazione è questa: quello che voglio io sono i fatti. Se avessi voluto parole, mi sarei comprata un dizionario. Molti ricorderanno la pestifera ma geniale Mafalda, la ragazzina impertinente e sincera creata dal disegnatore di Kino, il noto autore argentino di strisce di fumetti. È una delle sue battute fulminanti quella che abbiamo sopra citato. Un po' tutti siamo maestri di parole. Certo, oggi il lessico parlato si restringe e si intissichisce nel linguaggio dei cellulari e dei computer. Eppure i dizionari si ingrossano perché si aggiungono termini inediti o plasmati su vocaboli stranieri. Ciò che reclama Mafalda è ben altro, è quello che potremmo riassumere nella parola coerenza tra il dire e il fare. Famosa è la staffillata che Gesù infligge ai maestri ipocriti, religiosi o laici che siano. Praticate e osservate quello che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Ecco appunto i fatti, la testimonianza vera. Concludiamo convocando un'altra sapienza antica, quella di Confucio. Sii molto cauto nel parlare, perché non abbia a vergognarti se le tue azioni non sono state poi all'altezza dei tuoi discorsi. Ma la copertina vera e propria è dedicata a un lungo incontro, intervista che Fulvio Erace ha avuto con Renzo Piano e che racconta il ponte di Genova di ferro e di aria. L'architetto ripercorre tutti i passi della realizzazione della grande opera dal momento della tragedia, il 14 agosto del 2018, fino al sollevamento dell'ultima campata, con due obiettivi: creare sicurezza e bellezza. E poi vi segnalo dall'interno del Domenicale una lunga recensione di Gianluigi Simonetti di due libri, in realtà, La casa mangia le parole di Leonardo Luccone, pubblicato da Ponte alle Grazie, e I colpevoli di Andrea Pomella, pubblicato da Einaudi. Io ho sentito proprio ieri Alessandra Tedesco che ne parlava al Cacciatore di Libri, c'era anche l'autore, mi ha talmente incuriosito, anche se non deve essere un libro particolarmente allegro, che già ieri appunto l'ho comprato, approfittando il fatto che finalmente le librerie hanno riaperto anche in Lombardia. Il titolo della lunga recensione di Simonetti è Tormenti ombelicali globali, due romanzi borghesi di ambientazione domestica e quotidiana che fanno emergere il senso cupo di incertezza, disgregazione e sconfitta che in fondo anticipa un po', secondo Simonetti, quello che oggi sta vivendo l'Occidente. Sempre dalle pagine interne del Domenicale vi segnalo una recensione di Paolo Legrenzi a questo libro di Mark Moffett, pubblicato da Einaudi, che si intitola Lo sciame umano, una storia naturale delle società, che cosa ci insegnano gli insetti. È un biologo l'autore, che cerca di, appunto, osservando tutte queste grandi comunità, potremmo dirle, di insetti, trae ispirazione per spiegare la complessità dei meccanismi identificativi e divisivi tra noi e gli altri. E il pezzo di Fulvio Erace, il resoconto di questo incontro con Renzo Piano, lo trovate poi, la continuazione, oltre che sulla copertina, poi alla pagina 11 del Domenicale. Vi segnalo poi la copertina della Lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, a copertina affidata come sempre a un artista, questa settimana è Marcello Morandini, e le prime pagine, come sapete, sono di un lungo approfondimento. Qui è una bellissima intervista di Maurizio Porro a Woody Allen, che si intitola Per favore spargete le mie ceneri vicino a una farmacia, è un luogo che mi dà tranquillità. Regista acclamato come un genio, marito e padre adottivo, investito da accuse di molestie sessuali, ora è uscita in Italia l'autobiografia che, dice Maurizio Porro, è molto più della sua versione dei fatti, piuttosto un bilancio, e dice: lasciare New York come potrei, qui ci sono i miei affetti, il jazz e i miei dottori, perché lui, sì, con molta autoironia, ha sempre parlato della sua ipocondria e della sua assidua frequentazione per tutta la vita di psicanalisti. Ultimissima segnalazione, sempre dalla Lettura, è lo stesso libro che appunto è recensito anche sul Domenicale, qui la recensione di Telmo Pievani a questo libro di Mark Moffett, e il titolo in questo caso in realtà poi è un'intervista a Telmo Pievani, l'ho proprio intervistato, e una delle cose che dice Moffett è: sì, le razze esistono, ma solo nelle nostre teste. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Sullo sterrato ho buone prestazioni, sull'asfalto me la cavo, ma è nel digitale che sono imbattibile. Con i software sistemi Profis, Studio, Job e Solver, Spring Enologia, avete una marcia in più. Da sempre vi garantiamo stabilità e precisione per muovervi su tutti i terreni, anche quelli che cambiano di continuo, semplificando la crescita e lo sviluppo digitale. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Abbiamo sentito il motore nel gorgoglio del caffè. Abbiamo sognato il vento, guardando le tende spostarsi. Siamo arrivati quasi a rimetterla in moto, stringendo le chiavi o chiudendo la visiera del casco impolverato. Ma non abbiamo mai ceduto. Siamo rimasti a casa. E ora che stiamo per ripartire, prepariamoci a una nuova libertà. Quella riconquistata, quella più pura. BMW Motorrad, insieme per ripartire. Riprende la mobilità, riaprono le fabbriche, si torna via via alla vita normale. In questi anni, con la nostra rete di raccolta e i nostri impianti, noi del Consorzio degli Oli Usati abbiamo recuperato e rigenerato un rifiuto pericoloso, prodotto dai motori e dalle industrie, salvaguardando l'ambiente e ricavandone una risorsa preziosa. E non ci siamo fermati, neanche durante l'emergenza. Oggi, mentre l'Italia riparte, noi ci siamo. Buon lavoro, Italia! Per contattare il tuo concessionario, vai su conou.it. 24 Ore System presenta i nuovi eventi digitali del gruppo 24 Ore, format innovativi per continuare a mettere a disposizione di aziende e istituzioni tutta la nostra esperienza. Scopri di più su ilsole24ore.com/eventi. Il segnale orario vi è offerto da Burro e formaggi Brazzale, i più elevati standard di verde e benessere animale. Sono le 7:59. GR24, il sole 24 ore. Libera Silvia Romano, oggi rientra in Italia, un'operazione degli 007, mistero sul pagamento di un riscatto. Il TAR richiude bar e ristoranti in Calabria, spiagge affollate a Palermo, a strigliare i cittadini, questa volta il sindaco Orlando. Anche Cesare Battisti chiede di uscire dal carcere, il governo detta la linea per le scarcerazioni. Sport, attesa per oggi la relazione scientifica per la ripresa. Buongiorno da Marco Mancini e dalla redazione. In apertura la liberazione dopo un anno e mezzo di Silvia Romano, la cooperante italiana tornerà in Italia già oggi. Liberata ieri alle porte di Mogadiscio dopo 17 mesi di sequestro, Silvia Romano torna in Italia con un volo speciale che atterrerà a Roma alle 14, attesa fra gli altri dai magistrati che indagano sul suo rapimento. Sono stata forte e ho resistito, le prime parole della cooperante milanese agli uomini.